Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quello che gli uomini non sanno dire. Ci avete mai pensato che molte delle cose che succedono nelle vite degli uomini e indirettamente in quella di noi donne dipende non da ciò che gli uomini della nostra vita ci hanno saputo dire, ma da quello che non sono stati capaci di dire? E questo se vediamo il problema dalla nostra parte, quella di noi donne. Ma se spostiamo l'angolazione e proviamo a metterci nei panni di un uomo, ci rendiamo conto che non deve essere facile nascere, crescere, vivere in un mondo di uomini dove molte cose che vengono sentite, vissute, agite ogni giorno non hanno le parole per essere comunicate. Buongiorno da Nicoletta, oggi entriamo nel territorio del non detto degli uomini. Lo racconteremo noi, ma siete invitati a farlo anche voi chiamando subito il nostro numero verde 800 24 00 24 e raccontandoci, se siete uomini, la cosa che non siete riusciti a dire sino ad ora e che invece trovando le parole per essere comunicata vi aiuterebbe e vi farebbe stare bene, e se siete donne, che cosa gli uomini della vostra vita non hanno saputo dire, e non intendo solo i partner, ma anche i padri, i fratelli, gli amici e i colleghi. Per voi ci saranno alcune copie di un libro che ha ispirato la trasmissione di oggi, intitolato Quello che gli uomini non sanno dire, che l'editore Urrà ha messo a disposizione ben 3 copie. In studio con me Alberto Pellai, medico ricercatore, psicoterapeuta. Ciao Alberto, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, da lettore, quindi in quanto uomo, che cosa ti ha colpito di questo libro e che cosa ti ha colpito come psicoterapeuta? Ma direi che il libro prende proprio per mano gli uomini e li aiuta un po' a verificare come sono cresciuti. Parte da un'idea fondamentale: ciascuno di noi ha proprio bisogno e diritto di avere accesso alle proprie emozioni e di sentirle come valide. Se tu riconosci le tue emozioni, se tu in qualche modo sei in contatto con la parte emotiva, le emozioni poi sono delle bussole magnifiche che ti aiutano a muoverti nell'esistenza, ti aiutano naturalmente a godere di tutta la parte bella della vita e ti aiutano però anche ad affrontare, a traghettare con sicurezza nella parte più faticosa o più difficile. Mentre gli uomini hanno in qualche modo la possibilità o la capacità di riconoscere bene le emozioni positive, la felicità, la sorpresa, con quelle faticose, negative, tristezza, rabbia, eccetera, hanno molti, molti problemi. E questo è quello spesso che racconta il libro. Vi manca un po' la grammatica. Chiederci come stiamo e come ci sentiamo mette noi uomini particolarmente in difficoltà, perché negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza ci è sempre stato ostacolato l'accesso alle nostre emozioni, alle nostre sensazioni e necessità, e questo carente contatto con il nostro mondo interiore si protrae per buona parte dell'età adulta. 800 24 00 24, se volete intervenire. Oggi abbiamo pensato di coinvolgere 3 uomini che hanno dato parole alle emozioni attraverso la letteratura, il cinema e la musica. In linea con noi abbiamo Alessandro D'Avegna, autore di un romanzo, Cosa che nessuno sa, appena edito da Mondadori, è già un grande successo. Ciao Alessandro! Bentrovatissimo. Grazie. E complimenti. Alessandro, la protagonista del tuo romanzo è una ragazza, Margherita, 14 anni, ma in realtà, attorno a lei, si muove un mondo di uomini abbastanza in difficoltà. Il padre, il professore, Giulio, mentre c'è una nonna che si muove molto bene nelle emozioni. E insomma, anche nel tuo romanzo il mondo è diviso tra chi le emozioni le sa vivere e raccontare e condividere e chi non trova mai le parole. Sì. E tutta la storia parte proprio da incapacità di questo padre di dire in maniera chiara alla propria figlia che va via di casa. Margherita viene a sapere che il padre non tornerà più a casa dalla segreteria telefonica, e per me questo episodio, che è poi qualcosa che ho respirato purtroppo tra alcuni dei miei alunni in classe, proprio ora mentre ci sentiamo io sono in un buco tra un'ora e l'altra a scuola, e ha fatto nascere proprio questo desiderio di dare parole a un dolore che spesso appunto rimane muto. Magari spesso sono proprio i genitori che fanno fatica ad affrontare i punti di fragilità della loro esistenza, e questo padre in realtà ha paura di dire alla moglie, ha paura di dire alla figlia che la sua vita sta andando in pezzi, e forse proprio questa paura blocca il processo di trasformazione e di crescita di quella che può essere una normale crisi di una vita matrimoniale da affrontare, da poter superare. In effetti, Alessandro, il tuo romanzo, io l'ho letto, l'ho trovato molto bello, racconta proprio gli uomini molto in difficoltà rispetto alla capacità di comunicare nelle relazioni ciò che si è e ciò che si sente. Secondo me è molto molto interessante anche la figura del professore, perché lui ha un mondo di parole che trova dentro ai libri e che sempre sa offrire ai suoi studenti, ma quando poi quelle parole le deve usare nella realtà fa una fatica incredibile a passare dalla teoria alla pratica. Io ti amo, bisbigliò lei, e sono stata stupida a dirtelo così poco. Forse se lo avessi detto più spesso adesso ci crederesti. Io ti amo, disse puntando l'indice sul titolo del libro che teneva ancora in mano. Tra le parole di lei e lo sguardo di lui c'era il bancone delle novità, come un fiume che scorre tra due amanti, senza un ponte o almeno un guado per attraversarlo. Lui abbassò gli occhi sui titoli e ne lesse alcuni alla rinfusa, mescolandoli, nella speranza di trovare una battuta e una via di scampo. Ma nella realtà i dialoghi non funzionano mai. Nei libri i personaggi hanno la risposta giusta, anche quando è sbagliata. Nella realtà, invece, le persone, quando si tratta della verità, non sanno mai cosa dire. Alessandro, abbiamo sentito un breve estratto, ma io vorrei capire da te, tu che lavori con i ragazzi, come li aiuti? Che consigli dai per insegnarli e aiutarli a vivere pienamente le loro emozioni e a condividerle? Che io credo che questo allenamento sia anche protettivo, no? Soprattutto nei ragazzi che stanno diventando grandi, perché riconoscere, provare a parlare delle proprie emozioni aiuta anche a conoscersi meglio, a strutturarsi, come si dice, a diventare uomo. Guarda, io chiaramente insegno una materia che mi semplifica il lavoro, io non devo diventare una specie di interlocutore della grammatica sentimentale dei miei alunni, ma devo sfidarli su un territorio che è quello delle parole e della letteratura. Mi è sempre piaciuto quello che diceva Leopardi, che diceva che leggendo libri non è che avesse mai trovato cose che già non avesse dentro, ma semplicemente quelle parole così ben scritte avevano accelerato in lui quel processo di possesso di sé attraverso quelle parole. Quindi la cosa bella è questa, riuscire attraverso la letteratura, che è il territorio per me di insegnamento, di dare ai ragazzi quegli strumenti per possedere la sostanza vitale, dinamica, che in quel momento è in esplosione. E proprio il fatto che sia in esplosione, perché questa è l'adolescenza, e alla ricerca di una forma, il trovare parole che diano forma a questa informità della vita li aiuta ad aggrapparsi e essere più forti. È chiaro che in questo le ragazze, per ragioni di maturazione, sono più avanti rispetto ai ragazzi, e con i ragazzi io faccio molta più fatica a riuscire a entrare in questo territorio in cui devono un po' scoprirsi mettendosi in gioco direttamente. Abbiamo in linea con noi Fabio, ci chiama da Monza, 800 24 00 24. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Io volevo osservare che la comunicazione non è solo orale. Si comunica in molti altri modi, col linguaggio del corpo, col comportamento, e questo è tipicamente più maschile che femminile. È normale che due amici possano passare una giornata insieme senza neanche scambiare una parola, però comunicando ugualmente. La cosa è più singolare invece tra le donne, dove la comunicazione sembra centrata esclusivamente su quella verbale. Certo, forme di linguaggio diverse, dice Fabio. Ma sì, quello che dice Fabio in realtà è molto ben raccontato anche nel libro, quello che gli uomini non sanno dire. Però Fabio, quello che dice lei un po' lascerebbe intendere che le parole non sono poi così importanti nei processi di comunicazione. E invece una buona regola, che è un po' quella dello psicoterapeuta, è che imparare a dire le parole che connotano, raccontano, esplorano, identificano stati emotivi è un passaggio fondamentale per poi poterli riconoscere, in qualche modo gestire ed elaborare. Se lei ci pensa bene, ha fatto un'osservazione molto acuta. Gli uomini sono molto abituati a fare attività dove stanno l'uno a fianco all'altro, mentre le donne sono molto più brave a fare attività in cui stanno l'una di fronte all'altra. per un uomo ha molto senso guardare una partita in TV insieme ai propri amici, per una donna ha molto senso passare 2 ore davanti a una tazza di caffè guardandosi negli occhi. Questa modalità permette il rispecchiamento emotivo, che è fatto di sguardi e non è fatto di gesti, e che poi attraverso gli sguardi dà la possibilità di entrare anche nel mondo delle parole. Effettivamente è un po' la tesi della trasmissione di oggi: diventare più alfabetizzati non in termini di gesti ma in termini di parole sarebbe di grande aiuto poi per lo sviluppo emotivo dei nostri figli maschi e in generale per la competenza emotiva degli uomini. Dovremmo fare un apprendimento reciproco. Alessandro, a commento di Fabio, un ascoltatore ha scritto già subito: grande Fabio, noi uomini siamo così. Ma a me sembra che dire noi uomini siamo così non basti, perché noi uomini dobbiamo essere anche altro, cioè la metà dei nostri problemi vengono dal fatto che entriamo in relazione con delle donne, e queste donne non solo vogliono essere amate ma dobbiamo anche imparare ad amarle. E quindi, come diceva quella mia amica ironicamente, in un momento in cui io non la capivo perché non riuscivo ad ascoltarla, lei mi disse: guarda che la donna deve essere parlata, e usava questa sgrammaticatura che a me è piaciuta moltissimo. Cioè, a volte siamo noi uomini che abbiamo bisogno di essere un po' umanizzati dalle donne, quando appunto non abbiamo voglia di entrare in quel territorio che ci fa vedere immediatamente fragili, perché siamo più in difficoltà di fronte al mondo delle emozioni. Però, come diceva Alberto prima, se non abbiamo le parole per queste emozioni, e io lo vedo in maniera evidente con i miei ragazzi, rischiamo di non viverle neanche queste emozioni. Ringrazio Alessandro D'Avenia per essere stato con noi, lo lasciamo ai suoi ragazzi, se no se il professore Bigia, come si dice, a proposito di parole. Un abbraccio da Alessandro D'Avenia, ricordo il suo libro Tra cosa che nessuno sa, appena edito da Mondadori, è già un grande successo. Alessandro, a presto. Grazie dell'ospitalità, buon lavoro, ciao. Alberto, il libro che ha ispirato invece la nostra trasmissione, Quello che gli uomini non sanno dire, mette a disposizione anche una serie di profili di uomini che, come scappatoia, più o meno consapevolmente, trasformano le emozioni in qualcos'altro, proprio perché non le riconoscono come valide. Allora, ci sono dei profili che mi piacerebbe tu tratteggiassi per chiedere ai nostri ascoltatori in quale si riconoscono, o alle mie ascoltatrici se riconoscono qualcuno che vive loro accanto. Non parliamo solo di partner, ma andiamo un po' indietro nel tempo, quindi anche nel rapporto con il padre piuttosto che con il collega di lavoro. Sì, partiamo proprio dal dato di fatto che le emozioni nella nostra vita sono l'unica cosa che, quando arriva e si accende, non può non essere sentita. Noi possiamo far finta di non sentire un'emozione di fronte a un lutto, noi possiamo immediatamente buttarci nell'azione e dire: ho già superato tutto, ma questo non comporta che quell'emozione si cancelli, probabilmente rimane dentro di noi, continua a lavorare dentro di noi. Ci sono delle modalità tipiche con cui l'emozione poi, se non è stata ben gestita, riconosciuta, elaborata, diventa qualcos'altro. Una cosa tipica, molto tipica, e gli uomini ne sono frequentemente affetti, diventa una malattia, diventa un sintomo, diventa un disturbo psicosomatico, quindi viene trasferita fondamentalmente dalla testa al corpo, e quindi fa soffrire, dà dolore, ma diventa più accettabile, perché io ho un sintomo organico: dottore, curami il mio mal di testa oppure il mio mal di stomaco e dammi una medicina, e con questo tamponiamo l'effetto dell'emozione. Un'altra modalità molto tipica è l'autolesionista, cioè di fronte a una situazione in cui io sento di trovarmi inadeguato rispetto alle emozioni che provo, io allora a quel punto dico di me stesso, entro un po' nel profilo della vittima: certo che io faccio proprio tutto sbagliato, non sarò mai capace di, e a quel punto io, in realtà, affermando questa cosa, valido proprio il fatto che non voglio cambiare. Un'altra modalità, e questa è terribile, con cui gli uomini spesso reagiscono alle emozioni pesanti e dolorose, è il profilo del violento. Cioè, quando qualcuno interagisce con me, interferisce con me, accende con me emozioni che mi fanno sentire a disagio, io scarico tutto all'esterno attraverso un'azione che mi fa diventare potente e che mette l'altra persona nella posizione del non sapersi più difendere. Fondamentalmente la faccio tacere con la forza, e chiaramente questa è una situazione che poi è terribilmente distruttiva, sia per chi l'agisce sia per chi la subisce. E l'ultima, che secondo me è proprio anche un tema su cui eventualmente invitare, è quella del depresso. Cioè è incredibile vedere come tantissimi uomini si sono buttati nell'azione, hanno costruito con competenza la loro carriera e il loro successo, ma l'hanno quasi fatto come una modalità per sfuggire al territorio delle emozioni. Quindi così investiti nel lavoro, in realtà si sono difesi dal mondo delle relazioni. Anche quando sono sposati, anche quando diventano padri, fuggono da quel territorio che li lascia spesso così disarmati e senza parole. E il libro a un certo punto racconta di una depressione maschile molto molto tipica, che interessa uomini che a 50 anni apparentemente hanno tutto. Hanno una vita piena di tutto, non hanno un minuto libero, ma improvvisamente sperimentano un senso di vuoto e di abbandono proprio rispetto a quello che vivono e che sentono, che li fa stare molto molto male. Un SMS di Giorgio scrive: a volte però le donne dovrebbero capire la nostra sete di silenzio. Su questo naturalmente è anche, no, non possiamo evitare di considerarlo, ma io invito i nostri ascoltatori a raccontarci, se siete uomini, la cosa che non siete riusciti a dire sino ad ora, che invece vi aiuterebbe, vi farebbe stare bene. E se siete donne, che cosa gli uomini della vostra vita non hanno saputo dire. Uomini, categoria uomini, per voi tre copie di quello che gli uomini non sanno dire. Due per gli ascoltatori all'800 24 00 24, e mentre una per gli ascoltatori che sono in collegamento con noi via Facebook. Giorgio ci chiama da Milano. Buongiorno Giorgio, benvenuto. Sì, buongiorno, io sono quello che ha scritto il messaggio. Ah, eccola. No, perché mi rendo conto delle incomunicabilità a volte, però questo continuo parlare nelle nostre orecchie di maschi che siamo cresciuti giocando a calcio assieme, non parlandoci, andando a fare sport assieme, senza necessità di parlare, non lo so, fare i giri in moto, noi andiamo a fare i giri in moto, ognuno col suo casco, non ci parliamo tutto il giorno e siamo felicissimi. Allora a volte è un po' pesante il continuo parlare di chi ci chiede spiegazioni, a volte non serve neanche darle, basta guardarci, credono. Quindi è un po' anche perché il cervello maschile e il cervello femminile, ne abbiamo parlato tante volte, non vi volevamo riproporre questa divisione, questa distinzione, però Alberto, sono diversi. Sì, da una parte è proprio che abbiamo modalità di connettere aree diverse del cervello in modo non identico tra maschio e femmine, e la potenzialità enorme del cervello femminile, che ha molta più capacità di connessioni, quindi ci sono molte più reti dentro il cervello delle donne che probabilmente facilitano tenere insieme pensieri, emozioni ed azioni. D'altro canto mi sento di dire, e il libro lo racconta molto bene, c'è proprio anche un contesto socioculturale, c'è un modo in cui noi uomini veniamo cresciuti ed è un modo tutto al maschile. È molto difficile che quando un uomo diventa padre riesca a parlare della sua paternità col padre che ha avuto. Perché non riusciamo a farlo? Che fatica c'è dentro a queste parole che non vengono dette? Ma un ascoltatore mi fa notare che sono le madri che rovinano i figli maschi. Come mai gli uomini che sono cresciuti dalle donne non hanno poi la grammatica delle emozioni? Essere e benessere. Quello che gli uomini non sanno dire. Forse perché lo dicono con il linguaggio del corpo, con il silenzio. 800 24 00 24, raccontatemelo voi. Abbiamo preso spunto proprio da un libro, ne abbiamo a disposizione tre copie, Quello che gli uomini non sanno dire, Urrà Editore. E abbiamo in linea con noi Armanda, che ci chiama da Pisa. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Sono un po' emozionata perché non mi è mai capitato, ascoltavo la trasmissione mentre tornavo verso casa e nella personalità che un collega che avete lì ha tratteggiato ho riconosciuto perfettamente il comportamento di mio marito. Eccolo, l'abbiamo beccato, cosa fa? Sì, per essere una persona culturalmente molto preparata, una persona, voglio dire, da tutti i punti di vista perfetto. Nel momento in cui viene colto in fragranza di reato per qualche cosa banalissima anche, nel momento in cui sostiene una tesi che è palesemente insomma discutibile, ecco, perde le staffe. Il senso del corretto, direi, quasi, e alza immediatamente la voce, diventa una persona irriconoscibile. E io, i primi tempi di matrimonio, ora siamo sposati da tanti anni, restavo annichilita veramente, perché sono cresciuta in una famiglia dove mio padre è una persona mitissima, non l'ho mai sentito alzare la voce in tanti anni, soltanto proprio in casi del tutto traumatici, eccezionali. Per cui io i primi tempi, in effetti, e per lungo tempo restavo senza parole, veramente. Perché ne diceva molte lui, ma alzando la voce comunicava sicuramente la sua difficoltà. Ci sono tante persone, anche donne. Abbiamo Giuseppe da Latina, sentiamo che cosa ci dice. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, io sono qua da tantissimi anni. L'unica cosa che spesso volte non capisco delle donne è che in moltissime occasioni credo la signora poi precedente abbia quasi accettato il fatto di farci sentire sempre in colpa, cioè di riprenderci sempre, anche nelle cretinate. Anche nelle cretinate, nelle cose di tutti i giorni. Potrebbero passarci su, no. No, noi andiamo lì col ditino. Sembra che Giuseppe e Armanda siano, potrebbero essere una coppia, perché uno descrive l'altro. Alberto, ma direi che visto da lei, visto da lui. Che in realtà ci raccontano due modalità con cui alla fine si fugge dalla relazione, perché se io alzo tantissimo la voce sposto tutto nella dimensione del potere, che ti fa sentire che io sono superiore a te e ti tolgo la possibilità di stare in relazione e di poterne parlare, e questa è proprio una via di fuga che gli uomini, proprio come ha riconosciuto Armanda quando abbiamo letto i profili, utilizzano per sfuggire alla relazione che contiene le parole e i dialoghi attraverso il quale l'emozione può essere gestita. Far sentire in colpa è un altro modo di usare emozioni fortissime che però tolgono la possibilità di stare sulla arena. Invece devo dire che noi nel farvi sentire in colpa siamo maestre, Però riflettete sul fatto che quando una persona si sente in colpa, se raggiungete l'obiettivo gli togliete completamente la possibilità di fare un rilancio, quindi di parlare. Quindi non può, non direi che quello è il modo più efficace per invitare una persona a stare. Floriana dalla provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo semplicemente dire che a parte delle grandi verità che sento, però è una cosa che mi fa molto soffrire sentir dire questi uomini: noi siamo fatti così, ci serve più silenzio. Sembra quasi un modo per dire che non gli dobbiamo troppo rompere le scatole. Veramente io soffro moltissimo. Io in tanti anni di matrimonio ho sempre cercato di educare mio marito a questa emotività, che però veramente esce pochissimo. E non c'è verso. Il mio marito rientra nel profilo del lavoratore eterno. Il lavoratore è quello che ha tratteggiato Alberto prendendolo dal libro Quello che gli uomini non sanno dire. Molte donne anche mi scrivono via SMS al 349-238-6666. Sto cercando di educare il mio marito, il mio compagno. Noi ci sentiamo quasi investite di questo ruolo. Sì, direi che però per educare non bisogna parlare tanto, e direi che questa cosa, cioè c'è silenzio e silenzio, il silenzio quando è un silenzio pieno di cose che devono uscire ma ancora non sappiamo quali sono, un silenzio pieno di significati, il silenzio che ci deve far paura, che ci spaventa quando siamo di fronte a un uomo, e quando è un silenzio pieno di vuoto, ci vuole tempo, ecco, ci vuole pazienza. Sono la madre di Roberto. Mio figlio mi ha detto che lei fuma in sua presenza e che tiene in casa videocassette pornografiche. Lei si dovrebbe vergognare. Comunque mio figlio da lei non ci metterà più piede, chiaro? Interrogazione di storie di ieri? Ho fatto sega, mi sono sciolata da Villa Panfili. Pischelle? Sarà prezzare pischelle e po' da froci. La logica mi sfugge. Non ha molta voglia di studiare, però è intelligente, è spiritoso. Dovresti dirglielo. Che cosa? Che sono suo padre? Sei impazzita? Mi direbbe a morte. C'è un film nelle sale in questa settimana che sembra la traduzione in immagine di molti dei concetti che stiamo raccontando stamattina. Un uomo che diventa padre del proprio figlio, di cui ignorava, ma forse dovremmo dire non era pronto a contemplare l'esistenza. In linea con noi abbiamo il regista Francesco Bruni, premiato a Venezia proprio per questa sua opera con il premio nella sezione Controcampo. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Intanto complimentoni, un film di cui tutti hanno parlato bene, ma io vorrei chiedere a lei, com'è stato difficile per lei raccontare una storia di uomini un po' alle prese con un mondo di emozioni che li travolge, rispetto al quale si sentono spesso incompetenti e impotenti? Ma non è stato difficile, anzi è stata veramente, diciamo, l'ispirazione di questa storia. Cioè, mi sembra che gli uomini, intesi come padri, siano un po' in crisi ultimamente, facciano fatica a trovare un loro ruolo, sì, all'interno della famiglia, che vengono raccontati soprattutto nel momento in cui sono violenti, esasperati, frustrati. E io invece volevo raccontare anche un altro lato della paternità, quello per l'appunto sentimentale, amoroso. Infatti questa è una storia d'amore alla fine. Sì. Esatto. Io ho visto il film, l'ho trovato magnifico e tra l'altro l'ho consigliato a moltissimi uomini che sono alle prese proprio nei suoi cerchi del papà, affaccendati. Quindi ha fatto veramente un tam tam, Alberto, con la paternità. Grazie. Rispetto ai figli adolescenti ho trovato tra l'altro straordinario il duplice punto di vista, perché effettivamente questo è un uomo che si riappropria della dimensione paterna, ma ha di fronte a sé un figlio magnifico che gli fa questo straordinario dono. Certo, è un figlio che deve riappropriarsi della dimensione filiale, non diciamo nel rapporto con la madre che lui ha, ed è un rapporto amorosissimo, però diciamo nella dimensione del rapporto con il principio di autorità, vogliamo chiamarlo così, che un padre rappresenta, il senso del limite. Ecco, è un ragazzo a cui manca il senso del limite e lo troverà in quest'uomo che all'inizio della storia non rappresenta più un limite neanche per se stesso, nel senso che è totalmente spento e abbandonato. Ecco. Trovate interessante anche nel film, quando lei, tramite la relazione tra padre e figlio, lei racconta come la relazione tra i due condiziona anche il modo di vivere la sessualità dei figli. Ma lì c'è un rifiuto della sessualità da parte di tutti e due, per motivi, diciamo, speculari ma anche diversi, nel senso che il ragazzo dice questa frase che anche nel trailer, che viene letta poi spesso solo in chiave comica, cioè stare appresso alle pischelle un po' da froci, che vuol dire però, diciamo, a parte la risata che suscita, che il ragazzo rifiuta tutto l'armamentario sentimentale che implica avere una relazione con una donna. E quindi insomma si trincera ancora nell'adolescenza fondamentalmente, mentre invece il padre rifiuta le donne per paura del confronto, insomma è un, fra l'altro è impotente nel film il personaggio di Fabrizio, sì, proprio perché ha messo anche il sesso, diciamo, fra gli eventi traumatici e difficili e faticosi con cui non vuole più fare i conti. Allora, noi ringraziamo Francesco Bruni per essere stato con noi, soprattutto per questo bel film. Molti ascoltatori mi stanno chiedendo il titolo. Il titolo è Scialla. Ed è veramente un film da vedere, lo consiglio tantissimo agli uomini, chiaramente anche alle donne. Grazie, complimenti, buona Grazie giornata. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Monica dalla provincia di Verbania, Luca da Padova e Graziella da Venezia. Iniziamo da Monica, prima delle informazioni sul traffico. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Vi chiamo da uno splendido lago maggiore pieno di sole. Oh, che fortuna. Noi qua a Milano non è ancora arrivato, sì. Siamo verdi di invidia. Assolutamente. Comunque l'invito è aperto, sappiatelo. Grazie. Dunque, io volevo dire una cosa molto rapida. Fatti fa saldi tutti i difettacci degli uomini, gli atavismi tali per cui non bisogna esprimere i sentimenti, le emozioni, eccetera. Io penso che oggi come oggi gli uomini siano molto più propensi ad esprimere questi sentimenti e queste emozioni, ma con una sana autocritica ritengo che ci siano troppe donne castranti, pretenziose e castranti. Sono d'accordo. Esatto. Che non permettono a questi uomini di essere anche spaventati, dolci, confusi, no? Pretendiamo sempre il cavaliere senza macchie e senza paura, no? Mm. Viceversa, penso che una donna con un padre, con un fratello, con un compagno, con estrema dolcezza, estrema disponibilità all'ascolto, che è un grosso valore, secondo me riuscirebbe a superare tutti questi, diciamo, paletti, questi blocchi. Quindi, Monica, possiamo riassumere la sua telefonata prima di andare a sentire il traffico? Donne che vogliono troppo? Sì, sono pretenziose le donne. Pretenziose. Essere e benessere. Mi scrive Carlo. Cara Nicoletta, tra te e Nicoletti, se non fate le trasmissioni dove l'uomo appare uno sfigato, non siete contenti. Non dica così, Carlo, mi chiami 800 24 0024. Graziella, buongiorno, da Venezia. Me li tratti bene, questi uomini, se no Carlo. Buongiorno Nicoletta. Beh, posso parlare soltanto della mia esperienza, proprio veramente. Ecco, io capisco che magari gli uomini parlano meno e esprimono meno le loro emozioni, però è arrivata una situazione veramente patologica, dico io, perché dove non c'è proprio nessun confronto, nessun esprimere le proprie emozioni, ma non soltanto emozioni, insomma, e sì che mio marito è una persona anche colta, è una persona, insomma, così, ecco. E dopo, purtroppo, anche si ripercuote questo anche nella sessualità, naturalmente, perché succede così, no? Certo, si parla col corpo e perciò anche... Però noi avremo bisogno di parole, come diceva Davenia, la donna ha bisogno di essere parlata, ma come un ascoltatore mi fa notare, noi avremo le parole se solo voi ce le lasciaste dire e non ci inondaste voi di discorsi. Grazie alla nostra ascoltatrice, 800 24 0024. Ognuno ha una storia, un destino, una via, ognuno ha il suo tempo, non c'è un'altra te, lo stesso cuore, perfino l'amore non è mai uguale ad un altro amore. Unici al mondo, in linea con noi abbiamo Michele Zarrillo. Ciao Michele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un nuovo CD che già dal titolo racconta ciò che rende specifico ciascuno di noi, irripetibile, uomo o donna che sia, no? Ecco, un CD dove ci sono molte storie al maschile, un incontro tra due amici, una canzone dove parla un papà che ha avuto un figlio da poco. E è vero. Tante volte anche con Alberto Pellai abbiamo parlato del potere della musica, la musica aiuta e arriva forse là dove nella vita quotidiana le parole non si trovano. Tu come cantautore questa cosa la vivi? Sì, io ho una grande gratificazione quando riesco a capire che ci sono canzoni che riescono a far identificare molte persone, che riescono a far conoscere addirittura molte persone. Io, come molti sanno, ho cantato e canto molte canzoni anche legate ai sentimenti e ai rapporti di coppia, per cui chiaramente ho fatto vivere anche molti incontri. Sì. Eccomi, mi senti? Sì, mi sentite? Eccomi. Ti sentiamo forte e chiaro. Per cui è chiaro che parlando di sentimenti, di rapporti, si va nel quotidiano, perché la nostra vita è basata sul rapporto, sui rapporti umani soprattutto, ma anche il rapporto di coppia è fondamentale proprio per la nostra esistenza, no? Perché noi in realtà esistiamo perché per fortuna ci sono persone che si incontrano e si parlano e si amano. Sì, riescono poi a generare anche esseri umani, per fortuna, ancora c'è chi ha questo coraggio, e per fortuna sono ancora in molti, e quindi le canzoni hanno questo ruolo fondamentale per la vita di tutti i giorni, per gli incontri. Da attivatori, da facilitatori, degli intermediari facilitanti. Alberto. Michele, tu che stai per cominciare una tournée, parti il 3 dicembre da Torino, sarai il 12 a Firenze, il 13 a Milano, ma aiutaci a capire quando ci sono uomini e donne donne ad un tuo spettacolo, tu ti accorgi che hanno reazioni differenti o la musica arriva più o meno in modo identico ad entrambi? Ma quando vedo delle coppie, chiaramente ci sono momenti in cui addirittura si abbracciano, e questa è una cosa che mi commuove sempre, è una sensazione bellissima. Io credo che le canzoni, gli spettacoli, la musica, l'arte in generale, insomma, da quella più importante a quella che, se si può dire, più leggera, credo che abbia il ruolo di condivisione. È fondamentale questa cosa, infatti la maggior parte delle persone quando assiste a degli spettacoli difficilmente assiste da sola o in genere, insomma, sono coppie o ci sono forti amicizie, ecco, anche perché la musica, come tante altre forme d'arte, è appunto, essendo una condivisione, è bello proprio, come dire, andare insieme a sentire spettacoli, ad assistere, a sentire musica, ad assistere. Quindi se non trovate le parole, vi aiutano le note. La musica, il concetto è la musica, certo. Come si dice sempre, perché sennò scriveremo solo dei libri. È chiaro che la musica, unita alle parole, riesce a dare a diventare un momento, si spera, felice, un momento che possa comunicare qualche sana emozione, insomma, ne abbiamo bisogno di sentire qualcosa, sì, di cose buone, insomma, no? Le canzoni poi in genere, anche se a volte parlano di separazioni, però è come dire, mal comune mezzo capito, è un, certo, racconto di qualcuno che vuole condividere il dolore anche con gli altri, no? Certo, poi quando... questo è importante, trovare il modo di condividere le cose belle e le cose meno belle. Senti, sì, in bocca al lupo, sono contenta che tu parta proprio da Torino il 13 dicembre, la mia città. Grazie. Sì, no, mi scuso per questa inconvenienza che evidentemente non è stato comunicato, ma in realtà il tour parte il 12 dicembre. Ah, ecco. Il 12 dicembre, però sempre da Torino a Firenze. Il 12 dicembre da Firenze, e Torino è stata spostata a gennaio. Mamma mia, me l'hai messa dopo. Vabbè, allora avremo modo comunque di vederci con i torinesi. Grazie a Michele Zarrillo per essere stato con noi. Il libro abbiamo scelto Monica, Donne che vogliono troppo, Armanda con un marito che non trova le parole, e Giuseppe che ci ha raccontato che la moglie esige troppo da lui. Vi saluto, siamo puntualissime. Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica, Laura Vanoni in redazione, grazie ad Alberto Pellai, grazie a voi. Essere e benessere.